anche nonostante sia stato presentato appunto come una necessità per poter intervenire nella regione per la gestione dei flussi migratori o per mai definiti pericoli alla sicurezza italiana, così come tutti gli altri accordi di natura militare, apre una porticina che può diventare un bel portone anche alle forniture militari. Non solo perché apre a forniture dirette di dismissioni, per esempio, delle nostre forze armate che regalano, è avvenuto tante volte in passato, sistemi militari ad altre forze armate con cui c'è un accordo, ma anche perché si abbassano, proprio perché un paese viene considerato con uno status privilegiato in quanto contraente questo accordo, si abbassano, dicevo, le norme, i controlli, le parti autorizzatorie della legge sull'export militare. E non a caso, infatti, nell'accordo stesso una buona parte, quasi la metà, è dedicata non tanto ai dettagli militari, ma proprio a possibili cooperazioni nell'ambito dell'industria della difesa. Siccome il Niger l'industria della difesa fondamentalmente non ce l'ha, si può leggere solo in un modo: opportunità per le nostre industrie delle armi. Certo, ecco, ti chiedo se il Niger risponderebbe a tutti gli effetti a quei paesi verso cui si possono esportare armi. Allora, sicuramente poi il problema è che le norme, i principi della legge 195 del 90 che regola l'export di armi e non solo, anche della posizione comune europea, del trattato internazionale sulle armi a cui l'Italia aderisce, dovrebbero essere molto chiare, ma nemmeno in un caso drammatico come quello dell'Arabia Saudita, degli Emirati Arabi che le usano in Yemen, per ora ha potuto fermare, no, questa esportazione, se no secondo noi chiaramente non sarebbe stata possibile. Quindi è ancora più difficile in un certo senso che nel caso del Niger, in cui non c'è un conflitto conclamato, anche se ci sono problematiche rispetto alle spese militari, rispetto alla situazione di povertà, ci sia un blocco. Il punto è che se già questa cosa è complicata, come vi ho spiegato, sulla base della legge, il fatto che subentri poi un accordo lo rende ancora più difficile questo stop, perché a quel punto il Niger non è più uno stato Y estero da valutare, ma diventa uno stato con cui abbiamo una partnership militare e di conseguenza uno stato, tra virgolette, più affidabile. Per cui questo è un po' il problema anche di questo tipo di accordi, e non è banale che, non è casuale che appunto un accordo che era stato secretato in realtà è un accordo molto standard, molto simile a tutti quelli che sono stati stipulati negli ultimi anni, quasi a dire che il problema non era tanto la specificità o la segretezza dell'accordo, ma il fatto che sia così generico e generale da poter aprire la porta a un po' a tante cose. Vi dico un esempio, una cosa banale, quasi una battuta, ma che vi fa capire davvero la serialità di questi accordi. L'hanno talmente copiato e incollato male, in un certo senso, che è prevista la possibilità di arrivare con delle navi, uno scambio con attracco di navi in Mali. Ecco, il Mali non ha nessun confine col mare, non ha accesso al mare, eppure è stato mantenuto. Perché? Perché si è fatto così per tanti altri accordi militari e quindi si è voluto far così anche per il Niger. Scusate, il Niger, non il Mali. Certo, certo. Ecco, però faccio una speculazione e poi mi dici se è campata in aria oppure no, perché la missione che è cominciata e che adesso attraverso la ratifica del Parlamento a posteriori dovrebbe essere approvata è stata ferma per diversi mesi e secondo una lettura anche per, come dire, dissidi con la Francia. Quindi, come dire, c'è una contesa anche sugli accordi che si fanno con questi stati africani da parte di potenze occidentali? Certamente, questa è una possibilità ed è stata la lettura come dire, più condivisa negli ultimi mesi prima dello sblocco della missione effettivo. Proprio per questo noi chiediamo, insieme appunto ad ASGI e a CILD, che siano rivelate le lettere che il governo nigerino ha mandato al governo italiano, perché lì ci sono veramente i dettagli specifici della missione e del perché siamo stati chiamati lì. Questo accordo è più generico e, come spiegato, apre a tutta una serie di altre situazioni. Diciamo che tutta la storia è comunque una storia che dimostra anche l'illogicità di un certo percorso politico e di scelte, perché appunto la sottoscrizione dell'accordo è della fine del 2017, la ratifica sta avvenendo ora, ma intanto comunque alla fine del 2017, in una maniera, come dire, un po' problematica e non corretta secondo noi, perché stava finendo la legislatura, si è dato avvio alla missione formalmente, quindi la missione è stata votata prima che il Parlamento fosse addirittura messo anche solo a conoscenza dell'accordo che doveva essere alla base della missione. Poi la missione è stata congelata per questi problemi e quindi i nostri soldati se ne sono stati in una base in Niger, chiusi in una base, non potevano uscire dalla base, e solo a settembre con gli ulteriori accordi sono state prorogate, c'è stata data la possibilità di veramente intervenire, ma adesso tutte le missioni, non solo quella in Niger, non sono ancora state prorogate formalmente perché il Parlamento sta valutando oggi la proroga dell'ultimo trimestre 2018. Se vi ho confuso non preoccupatevi, è così, però dimostra come non ci sia linearità, e se non c'è linearità non ci può essere un controllo vero.